2024 di Enrico Pagliarini. Questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Bentornati a 2024. Beh, la notizia della settimana è sicuramente legata a una Tesla, purtroppo ad un fatto tragico che si è scoperto pochi giorni fa. Durante questa settimana l'autorità che si occupa della sicurezza stradale negli Stati Uniti, la National Highway Traffic Safety Administration, ha aperto un'inchiesta su un incidente particolare, purtroppo un incidente mortale, un incidente d'auto. Si tratta del primo incidente mortale che coinvolge un'auto dotata di guida autonoma, potremmo dire di guida semi-autonoma. Allora, si tratta di una Tesla S, la Tesla è nota per queste super macchine elettriche che da circa un anno hanno una funzione che si chiama Autopilot, che è un sistema di assistenza alla guida che, se lasciato da solo, è in grado di pilotare in autonomia su gran parte delle strade. Ci devono essere alcune condizioni, ad esempio che ci siano le strisce disegnate per terra, ma la Tesla non è l'unica a fare un prodotto del genere. Ci sono altre automobili che sono dotate di varie tecnologie che in alcune condizioni, tipicamente in autostrada, di fatto possono guidare da sole. Però bisognerebbe tenere le mani sul volante, anche perché proprio i produttori di automobile hanno vari sistemi che invitano gli utenti a tenere le mani sul volante. Stiamo parlando di sistemi che non sono ancora pronti per una guida completamente autonoma. Ma torniamo a questo fatto. L'incidente è avvenuto il 7 maggio, ha coinvolto Joshua Brown, che è un proprietario di Tesla particolarmente entusiasta di questa automobile. Aveva messo in rete molti video, molto famoso un video che addirittura è stato retweetato da Elon Musk, che è il proprietario della Tesla, perché in quel video si vedeva lui che era sulla sua Tesla e che aveva la guida autonoma, l'autopilot inserito. Ad un certo punto un furgoncino si avvicina all'automobile e l'automobile reagisce e i due veicoli non si scontrano. Brown aveva proprio messo in rete quel video per dimostrare la capacità di quell'automobile. Allora, il 7 maggio, la data dell'incidente, era inserito il pilota automatico, l'autopilot, e Brown, così sicuro della tecnologia, stava guardando Harry Potter. È un po' esagerato, perché l'auto si è scontrata con un camion che ha invaso, che è venuto dentro alla corsia dove viaggiava Brown, e né lui, perché appunto era distratto, faceva dell'altro, né soprattutto il software che era inserito si è accorto e quindi non è riuscito a frenare in tempo. Purtroppo questa persona è deceduta. Ora ci si domanda se questo incidente possa rallentare lo sviluppo dei veicoli a guida autonoma. Io penso di no, anche perché ci sono investimenti e c'è proprio una strategia di tutti i produttori di veicoli. Sicuramente, immagino io, diventerà più stringente l'obbligo di avvisare i piloti che si tratta ancora di sistemi in versione, chiamiamola beta, una versione non definitiva. Stiamo parlando di soluzioni di tecnologia che funziona nella stragrande maggioranza dei casi, ma non è ancora pronta al 100%. Ma questo lo dicono tutti i produttori di automobili. Il problema è che tu metti nelle mani di una persona che compra un'automobile da $70,000 un sistema che di fatto in molte condizioni guida da solo, tu ti fidi e vien voglia appunto di lasciar fare tutto all'automobile. La rete è piena di video di persone che fanno proprio questo, che mettono in rete video della propria Tesla o anche di altre automobili, però sicuramente la Tesla è quella che ha forse uno dei sistemi più sofisticati e direi quella che ha anche gli utenti più entusiasti, che sono tecnologicamente anche molto, molto bravi, e quindi fanno questi, montano le videocamere, si riprendono mentre fanno tutto ciò. Comunque tutti i produttori hanno varie soluzioni per far sì che chi guida tenga le mani sul volante e quindi stia attento, anche se appunto, come dicevo, l'auto già oggi in molte condizioni può fare tutto da sola. Beh, direi che la fase più difficile, ne abbiamo parlato varie volte a 2024 di questo tema, la fase più difficile da gestire è quella che stiamo vivendo, cioè la transizione verso i veicoli a guida completamente autonoma, che saranno sicuramente più bravi degli umani, su questo non ci sono dubbi, probabilmente faranno degli errori anche loro, ma considerate le migliaia di morti che ci sono nelle strade in Europa, negli Stati Uniti, in tutto il mondo, e sappiamo per certo che la guida autonoma ridurrà fortemente, se non azzererà, comunque si avvicinerà molto a zero gli incidenti, anche perché un conto è avere solo veicoli autonomi che tra l'altro sono connessi tra di loro, quindi si comunicano a vicenda le posizioni, quindi molto difficilmente si scontreranno. Un conto invece avere veicoli autonomi, o comunque veicoli dotati di queste tecnologie già oggi, e veicoli tradizionali con tutti i problemi del caso. L'imprevedibilità dell'umano a volte è un problema anche per la macchina, che deve reagire verso questa imprevedibilità. E poi c'è da dire, questa è una cosa molto importante, se uno prova questi veicoli, già oggi lo può fare perché ci sono veramente molte auto che sono dotate di queste tecnologie, direi che ci si abitua, cioè ci si fida, e il risultato è che ci si distrae molto facilmente, anche se questi sistemi non sono ancora perfetti e non ci si dovrebbe distrarre. È un problema molto serio su cui anche prima di questo incidente si stava dibattendo, però probabilmente dopo questa indagine intanto si scoprirà qualche cosa in più sulla dinamica dell'incidente, poi probabilmente le regolamentazioni diventeranno un po' più stringenti in questa fase. Però devo dire che tutti i produttori hanno vari sistemi, addirittura alcuni fanno fermare il veicolo se tu non rimetti le mani sul volante, perché l'automobile interpreta questo mancato posizionamento delle mani sul volante, che cerca di capire che cosa sta succedendo, e interpreta questo fatto come se tu fossi, che ne so, svenuto, comunque non fossi più presente e vigile. Ci sono vari sistemi, ne riparleremo sicuramente, un tema molto molto interessante. Altre notizie in breve nelle nostre Digital News. Digital News. La Commissione europea ha approvato il piano banda ultralarga dell'Italia, un piano da oltre 4 miliardi di euro che punta a migliorare le connessioni ad internet, costruendo una rete che rimarrà di proprietà pubblica in 7.300 comuni, pari a circa 13 milioni di cittadini. Per l'antitrust europeo, proprio perché la rete rimarrà pubblica, non si può considerare aiuto di Stato. Esiste già un bando, ne abbiamo parlato, 2024, un bando per la costruzione della rete nelle prime 5 regioni. Ci saranno vari bandi, vari scaglioni, varie disponibilità da qui al 2022. Entro il 18 luglio, secondo questo bando, questo primo bando che è stato pubblicato prima dell'arrivo del via libera definitivo della Commissione europea, allora, secondo questo bando le aziende interessate entro il 18 luglio, le aziende interessate alla costruzione e gestione di questa rete devono presentare la propria offerta. Luglio, agosto, settembre e ottobre saranno i mesi in cui si sperimenta la fatturazione elettronica B2B, quindi tra aziende. Per il momento non c'è alcun obbligo, si è appena partiti. Sappiamo che appena il 6% purtroppo delle aziende usa sistemi digitali per fatturare ad altre società, mentre è un obbligo da oltre un anno nei confronti della pubblica amministrazione. Però uno dice, visto che la digitalizzazione della fatturazione è una delle cose più facili, perché stiamo parlando di documenti che nascono digitali, poi vengono stampati, spediti e vengono rimessi all'interno di sistemi digitali, quindi è uno spreco pazzesco. Poi una inefficienza incredibile. Comunque, per invogliare le aziende alla sperimentazione, questo sistema prevede anche un sistema di incentivi anche fiscali. Due settimane fa abbiamo parlato delle specifiche del nuovo Bluetooth, la versione numero 5 che arriverà il prossimo anno sui nostri terminali, smartphone, eccetera eccetera. Allora, per venire incontro ai problemi di connessione che si hanno con smartphone o computer, è stata annunciata anche una evoluzione del Wi-Fi, che dovrebbe essere meno soggetto ai cali di prestazioni che ci sono quando le reti si interferiscono. Pensate in palazzi dove ognuno ha il proprio wifi e quelle reti si interferiscono l'una con l'altra, e quindi magari uno in casa dice ma il mio wifi non va tanto veloce, quello è un tipico problema di interferenza. soprattutto quando ci sono più dispositivi collegati contemporaneamente. Nei prossimi mesi capiremo quando usciranno i primi prodotti con questa nuova versione del Wi-Fi. A proposito di Wi-Fi, così concludiamo le nostre Digital News. Uno dei luoghi dove non c'è internet è rimasto l'aereo, uno dei pochi luoghi, anche se molte compagnie sulle tratte intercontinentali offrono già da anni il Wi-Fi a bordo. Allora, sulle tratte continentali invece la situazione è un po' varia, un po' diversa. Allora, negli Stati Uniti molte compagnie offrono questo servizio, usano connessioni terrestri, ci sono delle antenne terrestri, gli aerei per connettersi ad internet e poi fare il wifi a bordo usano appunto antenne terrestri, cioè si connettono con la terra, mentre in Europa si usa il satellite. Allora, Norwegian è una delle poche ad offrire in Europa questo servizio, ma questa settimana Lufthansa ha annunciato che da ottobre verranno attivati i primi hotspot sui voli a breve medio raggio. Fate caso quando siete negli aeroporti, se vedete un aeroplano tipicamente, ad esempio in questo periodo Norwegian, ma anche grossi aerei che fanno voli intercontinentali, se c'è una gobba sopra la fusoliera, beh, quello è il sistema di connessione al satellite per fare l'hotspot wifi a bordo dell'aeroplano. Più tardi nel corso della nostra trasmissione parleremo anche di intelligenza artificiale. Ho incontrato qualche giorno fa Nick Triantos, che è il Managing Director, quindi il direttore dello Stanford Research Institute, che è un luogo dove sono nate molte tecnologie che oggi utilizziamo, che è legato naturalmente alla Stanford University in California. Dunque, tra poco sarà anche con noi, tornerà Gianfranco Giardina nei nostri studi per parlare dell'evoluzione del settore televisivo, perché molti si stanno facendo delle domande, fanno delle domande anche a noi, giustamente dicono: ma come? È vero che dobbiamo, non c'è nessun obbligo, però se uno vorrà continuare a vedere i programmi televisivi sul digitale terrestre dovrà cambiare televisore nei prossimi 6-8 anni? Abbiamo appena fatto il cambiamento al digitale terrestre e c'è una nuova tecnologia che arriva, pazzesco, Adesso risponderemo tra poco. Prima volevo parlare di Internet of Things, di Internet degli oggetti, che è una delle precondizioni per poi arrivare a quel nuovo scenario che attende l'industria manifatturiera, e sappiamo che noi abbiamo un'industria manifatturiera molto forte. Che questo scenario che si chiama Industria 4.0. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una nuova dimensione dell'industria che aumenta il grado di digitalizzazione, di automazione, di elaborazione dei dati, di analisi dei dati che vengono raccolti dai sensori. Allora, ci sono tanti esempi, ovviamente non stiamo parlando di trasformazioni semplici, sono trasformazioni complesse che richiederanno anni e richiederanno anche molti investimenti, ma dobbiamo accelerare, perché molte nazioni, la Germania in prima di tutto, ma molte nazioni stanno facendo questa trasformazione per rendere molto più efficienti le imprese, ma soprattutto per creare nuovi prodotti, nuovi servizi in modo diverso, molto più veloce, molto più efficiente. Allora, Internet of Things, ne abbiamo parlato tantissime volte, la Internet dei sensori. Oggi, grazie alla sensoristica che costa molto poco, che si riesce a connettere alla rete Internet e che si autoalimenta in modo molto semplice, con batterie che durano anche anni, in questo modo io posso mettere sensori di qualsiasi genere all'interno della fabbrica, all'interno dei prodotti, prima e dopo, quindi anche per fare test prima della costruzione, della progettazione e della produzione di un nuovo prodotto, ma anche dopo per raccogliere informazioni. Allora, facciamo un esempio con un'industria molto tradizionale, un'industria manifatturiera che produce macchine per la trasformazione della carne, adesso lo sentiremo, e come la internet degli oggetti si può, può trasformare questi prodotti. Ne ho parlato con Daniele Salati Chiodini, che è il direttore tecnico di Omega Group. Noi produciamo macchine per lavorare la carne, le verdure, per il confezionamento e per fare il ghiaccio a livello industriale. Facciamo degli esempi anche per capire cosa fanno queste macchine. Beh, ad esempio, uno dei nostri clienti di riferimento è la grande distribuzione, quindi noi attrezziamo i loro laboratori di lavorazione carne, quindi con tritacarne, affettatrici, tagliaossi, macchine per fare hamburger, piuttosto che il ghiaccio su cui viene posato il pesce in esposizione sempre all'interno dei supermercati, piuttosto che macchine per fare le buste degli affettati che vengono sempre esposti all'interno dei supermercati. Quindi molto hardware, diciamo. Sì, molto. Nei nostri prodotti incide molto il costo dei materiali e la manodopera è una manodopera sicuramente istruita e sofisticata, ma non quella che è necessaria per costruire macchinari molto più complicati, come magari macchine di processo per il confezionamento. Voi siete un buon esempio di che cosa significa Industria 4.0 o soprattutto Internet of Things. Avete pensato di rendere più intelligenti le vostre macchine. Allora, innanzitutto che cosa avete pensato, diciamo, qual era l'esigenza? Ma l'esigenza era quella di dare più continuità lavorativa alle nostre macchine, perché normalmente quando si rompono è necessario un intervento immediato, in quanto il supermercato non si può fermare. Quindi, piuttosto che ricorrere alle emergenze, abbiamo cercato di creare un sistema che permettesse una manutenzione predittiva, quindi aumentare la durata delle macchine, diminuire i costi di intervento. Avendo macchine distribuite su centinaia di supermercati diversi, la grande distribuzione deve poterli controllare contemporaneamente tutti, avere un elenco e un database dei costi che è andata a sostenere, quindi anche per capire la validità, no, di certe macchine piuttosto che altre, piuttosto che capire quando è il momento di cambiarle o di comprarne delle nuove. Questo worldwide, in quanto lavorando anche con grandi catene tipo Carrefour o Walmart, i nostri macchinari sono un po' disposti in tutto il mondo. Che tipo di sensori, che tipo di tecnologia avete inserito nelle macchine? Beh, abbiamo inserito sensori di temperatura, sensori di pressione, lettori di RFID code, in modo da autorizzare le macchine solamente nel caso ci sia l'operatore abilitato a poterle comandare. E tutto questo è collegato alla rete del supermercato e di conseguenza internet. Sì, abbiamo sviluppato delle trasmittenti apposite, dei nostri gateway, e quindi i dati fluiscono o al supermercato direttamente o comunque in ogni caso via cloud, e possono essere gestiti a distanza sia dall'azienda sia dal controllo di gestione delle catene. Voi con questi dati che cosa ci potete fare? L'elaborazione dei dati permette di poter stabilire la durata media delle macchine, capire i costi annuali, quanto può incidere la manutenzione sulla vita di una macchina, quindi quando è giusto e corretto poterla cambiare, dare delle statistiche di utilizzo in modo da poterli distribuire o poterli scegliere nella maniera più corretta per ogni esigenza. Voi avete creato, per realizzare, per digitalizzare le vostre macchine, avete creato uno spin-off che si occupa proprio di questo, che lavora non solo per la vostra azienda. Sì, lavora per aziende anche di settori diversi, come anche per il nostro settore, anche con concorrenti diretti, perché comunque secondo me il mondo dell'IoT, il mondo della Factory 4.0 è talmente vasto che queste competenze, secondo me, più sono diffuse e meglio è comunque per il mercato. Che comunque potrebbe sembrare paradossale che il vostro spin-off lavora, fa consulenza per vostri competitor che potrebbero costruire macchine sofisticate come le vostre. Sicuramente, ma tanto se non siamo noi le possono fare magari in altre maniere, quindi io penso che sia più intelligente per tutti cercare di lavorare assieme. La concorrenza rimarrà comunque su altre specificità che sono le organizzazioni o caratteristiche intrinseche delle macchine. Eh sì, si può lavorare anche per i concorrenti, anche perché, come diceva poco fa Daniele Salati Chiodini, se non lo fai tu lo fa qualcun altro. La tecnologia è oramai ampiamente disponibile, lo sarà sempre di più, quindi non si può, ci si può nascondere dicendo io uso quella tecnologia e tu forse non riuscirai a farlo. Poi vale anche quello che dicevamo la scorsa settimana: se non ti occupi tu della tecnologia, è la tecnologia ad occuparsi di te, e spesso non porta buone notizie, nel senso che ti travolge e tu rimani travolto. Adesso cambiamo argomento, è con noi Gianfranco Giardina, il direttore del magazine digitale D-Day.it. Gianfranco, bentornato a 2024. Grazie e bentrovati a tutti gli ascoltatori. Ci sono voci di corridoio, ma che sono uscite recentemente in modo insistente dai corridoi, che dicono dal prossimo anno, comunque dai prossimi anni, dovremo tutti cambiare televisore. Sul dovremo poi discutiamo, perché nemmeno dobbiamo avere forse il televisore, visto che noi facciamo la radio, però visto che sappiamo che è l'elettrodomestico, forse dopo il frigorifero più popolare. Sì, quello dopo il frigorifero. Comunque forse una penetrazione stimata del 96%, quindi molto alta. Sì, lavatrice, frigorifero e televisore sono forse i tre elettrodomestici che sono in quasi tutte le case degli italiani. Innanzitutto partiamo da un dato di attualità. Siamo entrati nel mese di luglio e con questo mese di luglio succedono alcune cose che non riguardano direttamente il consumatore, ma che riguarderanno presto il consumatore. Sì, è un obbligo di legge in questo caso, che viene da lontano, cioè è stato pensato più di 3 anni fa, è stato rimodificato, rimodellato al dicembre del 2014 col decreto mille proroghe e prorogato fino appunto al 1 luglio 2016. Che cosa succede? Dal 1 luglio 2016 i produttori di TV non possono più vendere ai distributori e ai negozianti televisori che non abbiano determinate caratteristiche. Queste caratteristiche sono identificate in 2 aspetti fondamentali. Uno, avere un sintonizzatore DVB-T2, quindi del sistema di trasmissione televisiva digitale terrestre di seconda generazione. Noi oggi abbiamo il DVB-T e quindi non il T2. La seconda caratteristica necessaria è che disponga del sistema di codifica, soprattutto di decodifica HEVC. Sono sigle complicate, sì, però importanti. Troppo complicate per la stragrande maggioranza degli utenti, ma importanti. In buona sostanza si obbliga per il momento i produttori a vendere questi televisori e quindi a interrompere la vendita, più che altro a interrompere la vendita dei televisori non compatibili, perché si intravede in un futuro la possibilità di spegnere le attuali trasmissioni televisive e passare a questo nuovo standard. Chiaramente per fare un passaggio di questo tipo è necessario che sia già distribuito e installato un buon parco apparecchi compatibile, e l'unico vero modo per diffondere questo tipo di apparecchi quando ancora le trasmissioni non ci sono, quindi quando ancora non ci sarebbero vantaggi, è quello di stabilire un obbligo di legge. Benissimo, poi discutiamo di questo passaggio alla nuova tecnologia, che sarebbe uno switch off. Questo è un termine magari un po' complicato, però al quale siamo abituati, perché è stato quello che ci ha permesso di passare dall'analogico al digitale terrestre. Potrebbe poi ne discutiamo. Poi ne parliamo. Allora, per adesso quindi ai consumatori interessa poco. Diciamo che questo obbligo di legge serve per ripopolare i magazzini, per fare il magazzino di questi prodotti. Sì, la legge prevede già una seconda scadenza, sì, per il 1 gennaio 2017, in cui sarà illegale vendere TV non compatibili con queste caratteristiche e venderle al pubblico. Quindi i rivenditori hanno 6 mesi per collocare sul mercato e vendere tutto il magazzino non con queste caratteristiche, quindi chiamiamolo obsoleto, anche vecchio. Anche se il termine obsoleto non mi piace, perché no. I TV che non hanno queste caratteristiche sono TV assolutamente attuali, che funzionano e fanno tutto quello che devono fare oggi. quelli che potrebbero diventare obsoleti. D'ora in poi magari mi scapperà l'obsoleto e basta, sì, però sì, insomma sì, ci siamo chiariti. Quindi diciamo dal primo gennaio non ci sono più problemi. Non dovrebbe esserci più problemi. Cosa succede perché, in questi sei ecco, mesi? Perché la cosa ha una perché ne parliamo e perché ha una rilevanza, esatto, per i consumatori? Perché appunto ci sono questi magazzini che in larga parte sono pieni di apparecchi che non hanno queste caratteristiche richieste dalla legge e quindi che devono essere venduti, che non sono DVB-T2? DVB-T2 ce ne sono molti, quasi tutti, quasi devo dire la verità. Più che altro questa caratteristica del codec HEVC, che è quello con il quale presumibilmente verranno fatte le trasmissioni future e comunque con il quale si fanno già oggi le trasmissioni in 4K. Faccio un esempio di attualità. Le 7 partite delle fasi finali degli europei di calcio, in cui ci sarà anche l'Italia per fortuna, saranno trasmesse da Rai via satellite anche in 4K, quindi anche in risoluzione 4 volte superiore al Full HD. Per vedere queste partite, tra le altre cose, serve un TV con il codec HEVC, perché verranno già trasmesse in HEVC. Certo, una trasmissione sperimentale, occasionale, ma già oggi c'è, quindi è assolutamente pensabile che un TV a prova di futuro abbia questo codec. Sì, sì. Un TV che non ce l'ha sicuramente non è a prova di futuro, anche se oggi funziona per tutte le altre trasmissioni tranne quelle. Posso fare un paragone con l'audio, con una cosa che tutti conoscono? È un po' come comprare qualche anno fa un lettore di file audio che non leggeva gli MP3. Per esempio, che legge essere un altro formato, sì, è una codifica, se questa codifica non viene letta. Allora, che cosa ci aspettiamo in questi sei mesi che ci separano poi dall'obbligo di legge, in cui in teoria almeno dovrebbero scomparire dagli scaffali questi TV? Beh, ci aspettiamo che ci siano delle buone offerte sui TV che non rispondono alle specifiche di legge, e delle buone offerte anche forse buonissime, che in molti casi, no, può essere anche molto sensato acquistare, quindi aderire a queste offerte, perché saranno probabilmente offerte molto convincenti dal punto di vista del prezzo. Sì, già i prezzi sono bassi, figuriamoci con le offerte. Però, ecco, c'è un però, e qui noi, e questo credo che sia il ruolo dell'informazione a 2024, è sempre stato il ruolo della trasmissione, è quello di fare buona informazione affinché gli acquisti siano consapevoli. Cioè, chi compra un TV in offerta deve comunque controllare se è un TV DVB-T2 HEVC e se non lo è, semplicemente saperlo. A che cosa va incontro chi compra un TV non con queste caratteristiche? Beh, se, come poi magari accenniamo, nei prossimi anni verranno spente le trasmissioni attuali per passare alle trasmissioni DVB-T2 HEVC, e beh, in quel caso il TV continuerà a funzionare, ma solo con un decoder esterno. Quindi, proprio come abbiamo visto nel passaggio da analogico a digitale terrestre, e molti hanno affiancato al loro vecchio TV analogico un decoder digitale, in questo caso bisognerà affiancare al TV digitale, ma non così nuovo, un decoder. Questo potrebbe accadere presumibilmente nel 2022. Ok, poi ne parliamo. Se uno compra un televisore con queste caratteristiche, cioè, o meglio, che non ha queste caratteristiche che gli permettono poi eventualmente nel futuro di vedere queste nuove trasmissioni, potrebbe guardare il satellite solo? Potrebbe guardare soltanto il satellite, oppure sia il satellite internet a pagamento che l'offerta gratuita di TVSat, quindi ha delle soluzioni se non volesse aderire al digitale terrestre, ma comunque in quel caso lo farebbe in larga parte con un decoder. Sky ha un decoder proprietario comunque. TVSat non ha, cioè ha dei decoder, ma ha anche la possibilità di far vedere le trasmissioni direttamente dal TV. In questo caso va detto che forse è più future proof ancora avere un TV che abbia un tuner satellitare, quello sì. Perché con questi cambiamenti degli assetti radiotelevisivi dettati dalla rivoluzione internet, cioè guarda, basta vedere Netflix, pur con un numero di abbonati che non può in questo momento contare sugli assetti radiotelevisivi italiani, dove si parla di milioni di utenti tra Sky, Rai, Mediaset Premium, ecco, con un numero di utenti decisamente più esiguo, ha comunque rotto tutti gli equilibri. E quindi è pensabile che ci saranno grandi cambiamenti negli assetti radiotelevisivi nei prossimi anni, il che potrebbe ridare o dare un smalto e centralità all'offerta satellitare, soprattutto per chi cerca la qualità, quindi per chi cerca le alte risoluzioni, canali Full HD. Già oggi la Rai trasmette via satellite molti canali full HD contro i due fondamentalmente che trasmette sul digitale terrestre, quindi sì, un'offerta già oggi sicuramente ha senso, quindi migliore. Un buon consiglio sicuramente è guardare che ci sia il tuner satellitare. Certo, se il tuner satellitare con HEVC saremo compatibili, come dicevamo, anche con le trasmissioni 4K. Se c'è il tuner satellitare ma non c'è l'HEVC, siamo sicuramente compatibili con la trasmissione di oggi. Su domani potrebbe darsi che anche lì serva poi un decoder. E senti, se uno compra il televisore e magari si vuole rivolgere solo alle offerte internet, quindi Infinity, Sky Online, che adesso si chiama Now TV, Netflix, Chili, tutte queste proposte, poi ci sono tante altre soluzioni. Ma allora, il TV è uno degli apparecchi, non lo sappiamo, non ci pensiamo mai, ma è un apparecchio combinato. Cioè, proprio come quando c'era il TV col videoregistratore, è un apparecchio che ha più funzioni. Una è quella di display, quindi mostrare delle immagini sullo schermo che arrivano per esempio da un ingresso esterno. Un'altra è quella di sintonizzatore, fa il decoder di fatto. Se noi pensiamo che queste due funzioni possono essere disgiunte, in qualche modo qualsiasi TV di oggi potrà essere usato domani come monitor. E quindi se io, per esempio, hai citato Now TV, ho lo scatolino, il ricevitorino, chiamiamolo così, di Now TV, lo collego a un TV qualsivoglia e continuo a vederlo nel futuro finché il servizio sarà attivo. Quindi questo è un dato di fatto. Certo è che abbiamo capito con lo switch off dall'analogico al digitale il valore di non avere troppi device, quindi di non avere troppi apparecchi, troppi decoder, perché tutto corrisponde poi a selezione l'ingresso giusto e prendi il telecomando giusto. Ah, sì, sì. È una difficoltà in cui soprattutto gli utenti svantaggiati, e quindi soprattutto parlo delle persone anziane, hanno incontrato in passato dei problemi. Quindi io non amo mai le soluzioni troppo esplose, anche se sono quelle che rendono assolutamente più flessibili. Cioè domani mattina io cambio decoder e ricevo cose nuove sullo stesso TV, senza cambiare TV. Quindi, ritornando a noi, l'importante è che le persone siano consapevoli di cosa stanno comprando. Stanno comprando un TV che, almeno secondo la legge, è a prova di futuro, oppure no. Il problema, il più delle volte, è che è difficile scoprire, ecco, se un TV ha queste caratteristiche oppure no. Infatti una domanda, e riporto la domanda di alcuni ascoltatori che hanno scritto in queste ultime settimane: queste sigle HEVC, DVB-T2, ma ci sono espresse molto facilmente? Perché io ho fatto un po' di ricerche e non è mica così scontato. Allora, il DVB-T2 oggettivamente si trova abbastanza dappertutto, direi sia sui cartellini prezzo dei negozi, sia sulle caratteristiche tecniche indicate sui siti dei produttori, quindi non è difficile trovarlo. Il problema interviene col discorso dell'HEVC. Vero è che quasi tutti i TV 4K in vendita oggi, cioè delle ultime serie, sono anche HEVC, perché già da più di un anno si sa che se esisteranno trasmissioni 4K saranno codificate in questa maniera, quindi si è ragionevolmente tranquilli, ma giustamente diciamo bisogna essere certi. E poi c'è tutto il mondo di TV full HD che 4K non sono e che normalmente non sono neanche HEVC, e quindi lì bisogna guardarci dentro. Siccome i rivenditori in questa fase non hanno evidentemente un grande interesse a comunicare in maniera chiarissima, oddio, ci sono delle eccezioni, qualche grande catena, addirittura di grande distribuzione organizzata di stampo alimentare, diciamo così, sta incominciando a fare delle comunicazioni in questo senso, ma diciamo non è facile arrivare in negozio e trovare questo al bollino a prova di futuro, questo non ce l'ha, questo sì, questo no. È molto raro, perché, se non impossibile. Anche perché mi permetto di aggiungere un elemento. In questa fase immagino che, se non tutti, molti rivenditori avranno interesse a svendere prodotti che magari dal 1 gennaio prossimo non sarà più possibile vendere. Diciamo che alcuni rivenditori miopi, e questo è il mio giudizio, avranno interesse a fare così. I rivenditori invece intelligenti avrebbero interesse a comunicare il fatto che esiste un DTV di nuova generazione e dei TV a sconto di una generazione un po' più vecchia, lasciando l'onere al consumatore di scegliere, se ha potere di spesa o volontà di spesa, di magari spendere qualcosa in più e andare su un TV di nuova generazione, oppure se fermarsi a un'offerta speciale su un TV che poi dal 1 gennaio non sarà più vendibile. Quindi questo sarebbe secondo me la cosa migliore. Ma comunque sia, per ovviare a questo problema, nei prossimi giorni, stiamo raccogliendo tutti i dati, pubblicheremo un'anagrafe dei centinaia di TV che sono compatibili. Quindi ricordate www.dday.it. Se i TV non compaiono in questa lista, si può ragionevolmente pensare, salvo errori o omissioni, ma noi bisogna stiamo fare un supplemento d'indagine. Stiamo chiedendo le liste alle case anche per quello che riguarda le serie degli anni scorsi, perché già nel 2014 pochissimi apparecchi erano HEVC e nel 2015 una quota parte lo era, quindi mettendo dentro anche le sigle dei vecchi apparecchi è un brutto articolo, nel senso che è una lista di sigle, ma è molto utile per chi si approccia all'acquisto di un TV per verificare, per essere consapevole su quello che sta comprando. Questo è quello che ci sta a cuore. Senti, difendere diciamo i TV nuovi perché costano di più, o neanche, come dire, spingere tutti a comprare a sconto. Sì. Ecco. Nella, chiamiamola peggiore delle ipotesi, se io compro un televisore che non ha queste caratteristiche a prova di futuro, i primi problemi potrebbero sbucare fra 6 anni, non prima, molto difficilmente prima. Allora, molto difficilmente prima. Allora, c'è chi ovviamente contesta, e forse c'ha qualche ragione, la dizione TV a prova di futuro quando indichiamo un TV di VBT2 HEVC, perché come dicevamo ci sono altri fattori, certo. Tipo forse il tuner satellitare è più importante dell'HEVC, almeno in questa finestra temporale dei primissimi anni, per non avere un decoder esterno in più, eccetera, eccetera. Se verrà rispettata la scadenza che viene indicata adesso come più probabile, quella del 2022, a metà del 2022 le trasmissioni digitali attuali potrebbero essere spente a favore del nuovo formato. Se questo accadrà, come pare al momento, nel 2022 chi non ha un TV compatibile o si associa a un decoder o non vede più niente dal digitale terrestre, cioè, esatto. Può continuare a vedere sui satellite, può continuare a vedere via internet. Certo è che fare anche un'ipoteca sul futuro a 5 anni e mezzo con gli scenari di internet, la banda larga che sta crescendo moltissimo, va anche detto questo: se noi guardiamo i dati vediamo che siamo sempre nelle ultime posizioni europee per la diffusione della banda larga, ma siamo nelle prime posizioni europee per i tassi di crescita di banda larga, quindi effettivamente qualcosa si sta muovendo, quindi presumibilmente fra 5 anni lo scenario anche della distribuzione contenuti via internet potrebbe essere molto diverso. Sì, anche perché insomma ci sono stati pubblicati i bandi per costruire nelle zone periferiche del paese una infrastruttura banda larga, il mercato nelle città si sta muovendo, quindi è quasi certo insomma che fra 3-4 anni buona parte dell'Italia sia capace di ricevere trasmissioni televisive di qualità televisiva via internet. Adesso, diciamo, senza entrare in cose troppo complicate, i motivi per cui si stanno delineando questi scenari, perché uno giustamente si può domandare che cos'è questo 2022 e soprattutto per quale motivo si sta pensando a questo eventuale, perché non è certo al 100%, però è molto probabile, nuovo passaggio ad una nuova tecnologia, quindi con tutta una serie di dinamiche che abbiamo già vissuto dal passaggio dall'analogico al digitale terrestre, anche se probabilmente tutto quello potrebbe capitare, se non in una notte, in una settimana, in un mese. Perché sì, va anche detto che il primo switch off, quello che indicavi tu, dall'analogico al digitale, è durato 6 anni. 6 anni, certo. Quindi farlo adesso in una notte o qualcosa di simile sarà un po' complicato. Sarà complicato. Allora, tutto parte da una richiesta di fatto del mercato, cioè tutti noi usiamo gli smartphone in mobilità, usiamo sempre più dati e negli ultimi anni abbiamo visto che sono state messe all'asta nuove frequenze per la telefonia mobile, per far sì che gli operatori di telefonia mobile possano avere frequenze da destinare al pubblico per darci i famosi tot di giga al mese per fare traffico su internet, soprattutto oltre che giga anche capacità di banda, cioè quindi avere disponibilità di banda. Beh sì, la Commissione Europea prevede che ci sia un grande incremento della domanda di banda e mobilità, ma non ci voleva la Commissione Europea, sì, cioè, sì. Lo capivo anch'io. Tutti però allora abbiamo fatto una bella slide con dei numeri. Sì. Quindi, essendoci questo incremento di domanda che si stima essere entro il 2020 dell'800%, quindi un grande incremento, che cosa dicono in Europa? Dicono, beh, qui se non mettiamo a esposizione nuove risorse frequenziali, che salendo così la domanda e rimanendo di fatto l'offerta vincolata alle frequenze disponibili, i prezzi saliranno. Sicuramente non scenderanno, ma neanche rimarranno costanti. E comunque ci sarà poca banda rispetto alla domanda. Certo, ma appunto quando la banda scarseggia poi salgono i prezzi. Sì. Per calmierare i prezzi e quindi andare incontro delle esigenze che la popolazione esprime, l'Europa dice liberiamo delle frequenze televisive dove la domanda non è certo in crescita, quantomeno diciamo è stabile, ecco, a essere ottimisti, e passiamole alla telefonia per un'esigenza di interesse pubblico. E questo è assolutamente corretto a mio avviso. Quindi c'è questa benedetta banda 700, è circa un terzo delle risorse frequenziali attuali della TV che devono passare entro il 2020 secondo i primi intendimenti. Adesso si sta discutendo una proroga appunto al 2022, ecco da dove salta fuori questa data, per cedere queste frequenze. Questo è quello che l'Europa chiede, quindi lasciare queste frequenze televisive. Altre nazioni lo fanno con grande scioltezza per diversi motivi. Uno, il digitale terrestre è assolutamente marginale. Questo succede per esempio in Germania, dove è quasi tutto satellite e via cavo, e il digitale terrestre è limitato a piccole aree o comunque con un piccolo mercato. Due nazioni che hanno un numero di canali sicuramente inferiore al nostro. È vero che un gran numero di canali del panorama televisivo italiano sono evitabilissimi, cioè potessimo fare noi il referendum sulla permanenza in onda di alcuni canali, di altri no, credo che ci sarebbe un'ecatombe per alcuni canali che verrebbero cancellati perché sono assolutamente inutili. Parlo di molte televendite ripetute, senza demonizzare la televendita che magari viene anche seguita in alcuni casi, ma addirittura quelli che su molti canali ripetono la stessa televendita, ripetono le fattucchiere, eccetera eccetera. Siamo sempre stati molto critici noi nei confronti dell'utilizzo, dello spreco per certi versi delle risorse frequenziali. Quindi in altri paesi si può fare un po' di sacrifici, stringere i canali che ci sono nello spazio che resta e andare avanti. In Italia questo è considerato molto complicato. Perché? Perché le frequenze sono state date a suo tempo nel passaggio dall'analogico al digitale, lasciando le frequenze ai legittimi titolari, diciamo così. Quindi chi aveva un canale locale o un canale nazionale si è trovato con multiplex e quindi con un mazzo, fatemi dire, di 6, 7, 8 canali. E quindi questo, che sono considerate sue di fatto, che è una roba folle, che l'etere dovrebbe essere pubblico, in realtà poi è stato l'etere soggetto a concessione, diciamo così, come le spiagge, come queste qua, e la concessione è stata rinnovata fino al 2032. Questo forse è il grosso problema, con uno scenario che era già in fortissimo cambiamento. Vero è che gli imprenditori radiotelevisivi, gli editori, dovevano avere, come dire, un quadro di stabilità per favorire gli investimenti, eccetera, eccetera, però dare una concessione fino al 2032 è stato un po' azzardato. Detto questo, è chiaro che se dovessimo chiedere a qualcuno, a qualche editore, di lasciare le sue frequenze per questa richiesta dell'Europa, questi editori andrebbero indennizzati. Sì, sì. Probabilmente questi indennizzi costano, certo. Il governo non vuole darli e non vuole intaccare una parte dei proventi delle aste che comunque verranno fatte di queste frequenze a favore delle telco. In Francia hanno fruttato 2 miliardi e 4 le frequenze della banda 700 che sono già state date in asta, quindi è presumibile pensare che qualcosa di simile, se non addirittura di più, possano fruttarlo anche in Italia. Ecco, basterebbe dare una parte di questi per indennizzare qualche proprietario di frequenza e forse converrebbe finirla, anche all'editore. Finirla così, no? Quindi, diciamo, ad alcuni editori televisivi converrebbe prendere questi soldi e smettere di fare il prodotto televisivo soprattutto continuare magari a fare il prodotto televisivo, ma canalizzarlo diversamente, su satellite, e su IP e su internet. Quindi questo per dire che ci sono tante soluzioni. La soluzione che l'Italia sta scegliendo è quella invece di mantenere tutto com'è, cioè mantenere il numero di canali, tutti i numeri di canali, sì, come sono, gli editori come sono, e per fare questo ha bisogno di stringerli su uno spazio di frequenza inferiore. Per stringerli, passando a DVB-T2 e alla codifica HEVC, si guadagna l'efficienza necessaria per poter rioffrire di fatto al consumatore lo stesso lo stesso scenario televisivo, però in una frequenza, in un numero di frequenze più piccolo. Quindi è un'esigenza italiana, nazionale, quindi è importante questo. È un'esigenza degli editori televisivi, non dei consumatori. Sì, ecco, quando qualcuno scrive e quando qualcuno legge l'Europa ci chiede, no, sbagliato. No, l'Europa ci chiede di cedere le frequenze alle telco ed è, come abbiamo detto, ragionevole. Il fatto che poi la soluzione, invece di spegnere i canali televisivi, sia quella di costringere tutti a fare un salto tecnologico, e noi siamo anche contenti perché se vengono diffusi dei TV ne parliamo di più, migliori, però. No, ma se, voglio dire, io da tecnologo sono contento che ci siano più TV HEVC in giro, però ecco, insomma, che ci sia un obbligo che soprattutto deriva dall'Europa, questo è assolutamente falso e bisogna dirlo chiaramente. Certo, quindi tutto questo scenario potrebbe accadere nel 2022, è certo? Che si faccia questo, perché è complicato comunque, cioè in praticamente un'ora, visto che non c'è lo spazio, visto allora, quando c'è stato il passaggio dall'analogico al digitale, una parte di canali veniva trasmessa sull'analogico e una parte cominciava a sbocciare sul digitale terrestre, e lì c'erano frequenze vergini, quindi si poteva iniziare, e qui no, anzi ci c'è meno spazio e bisogna in quel poco spazio utilizzare questa nuova tecnologia per farci stare lo stesso numero di canali, ma non c'è lo spazio per trasmettere in contemporanea il vecchio e il nuovo. No, assolutamente no, questo è quello che si viene chiamato switch over, quindi la coabitazione dei due segnali non è possibile, anzi dobbiamo cambiare tipo di segnale proprio perché non ci stiamo più neanche col segnale normale, quindi quelli tradizionali, quindi figurarsi. Qui la questione è complicata perché in Italia di certo non c'è niente, non c'è mai stato niente. Nel 2022 ci sarà comunque un nuovo governo, perché la legislatura arriva a termine, e quindi potrebbero cambiare poi le decisioni. Quello che sappiamo di certo oggi è che l'Europa ha chiesto di lasciare le frequenze entro il 2020, che il governo ha espresso parere sia nella Commissione Camera che nella Commissione Senato per avere una proroga al 2022, essendoci imprescindibili motivi di carattere nazionale che impediscono un cambiamento così repentino, non perché non si possano fare l'aste o dare le frequenze, ma perché nel 2020 non ci sarebbe stata una diffusione sufficiente dei nuovi TV per poter permettere uno switch off, che è il progetto italiano. In Francia questo switch off, diciamo così, switch off è già stato fatto, ma senza passare all'HEVC, quindi con un livello di tecnologico okay, minore, per passando all'MPEG-4 che è la codec che viene usato per l'alta definizione, per cui già oggi sono compatibili l'85% dei TV già nelle case degli italiani. Quindi sì, fare un passaggio dà un po' meno spazio, un po' meno agio, ma è sicuramente già super compatibile, e già per il 2020, quando i francesi pensano appunto passare poi effettivamente queste frequenze, se non addirittura prima. Comunque i francesi hanno già fatto lo spegnimento a maggio delle vecchie trasmissioni verso l'MPEG-4. Chi non ha un TV MPEG-4 ha comprato il decoder però esterno. Abbiamo detto che sono TV più dell'85. Sono tanti, sì. Ecco, quindi questo è un dato di fatto. Dopo è un compromesso tecnologico. Quello che succederà, pare che in ambienti europei sia passato comunque il concetto della richiesta di dilazione temporale che il governo italiano ha fatto, quindi probabilmente la norma finale che è in corso di approvazione prevederà il 2020 più 2 anni per comprovati motivi. Quindi nel 2022, se nulla cambia, effettivamente le frequenze sicuramente passeranno, e se non cambia la strategia del governo, del nuovo governo, la scelta sarà quella di fare uno switch off al DVB-T2 HEVC. Poi bisognerà vedere a ridosso se il tasso di penetrazione per allora sarà molto basso, sarà molto basso o non giudicato sufficiente dal governo dell'epoca, si sceglierà comunque di cedere le frequenze, perché questo sarà obbligatorio per non andare incontro a un'inflazione europea. Sì, beh, anche perché gli operatori di telefonia mobile le chiederanno a gran voce. Poi ci sono dei problemi di coordinamento transfrontaliero, cioè se la Francia accende le frequenze, noi non possiamo al confine continuare a trasmettere digitale terrestre che disturba le trasmissioni dei dati. Quindi ci sono proprio una questione di coordinamento europeo. E da questo punto di vista vedremo quale sarà l'atteggiamento del governo che ci sarà. Se sarà simile a quello di oggi, sicuramente assisteremo a uno switch off. Anche questo, ahimè, purtroppo è da vedere, ma la sfera di cristallo non ce l'abbiamo. A pensar male si fa peccato, almeno per chi crede, certo. Però a volte ci si azzecca. Se io dicessi che questa soluzione italiana è stata fatta per, da un lato, accontentare gli editori televisivi, per lo Stato no, senza prendere troppa responsabilità, perché non si impone quasi nulla, e approfittando del fatto che in questo modo si cambia tecnologia e si obbligano gli italiani a acquistare televisori, e quindi di fatto si fa anche un favore a tutto il mondo della distribuzione dei produttori. E diciamo l'ultimo gabbato è il cittadino che deve beccarsi. Sì, ci metto anche l'erario, cioè c'è l'IVA, c'è un 22% sul giro d'affari aggiuntivo, più tutto l'indotto, eccetera, eccetera, e più c'è anche il risparmio nel non dover indennizzare nessuno. E quindi questo non è banale, no? Quindi prendere tutti i soldi dell'asta e non dover indennizzare nessuno. Beh, sì, a pensare male. Ecco, io levo il male. Dico a pensare, certo che si vede una cosa di questo tipo, perché questo tipo di switch off, se verrà fatto in questi tempi, perché se fosse fatto in tempi più lunghi io sarei favorevole, perché è sempre un miglioramento tecnologico auspicabile, però quando l'installato spontaneo è quasi totale, farlo così dopo 5 anni dall'entrata in vigore dell'obbligo di legge, a oggi la penetrazione di TV compatibili è del 3%, quindi diciamo trascurabile. Diciamo che tutto inizia dal 1 gennaio 2017. Ecco, quindi a soli 5 anni dall'introduzione dell'obbligo di legge, quando basta fare due conti, il tempo medio di vita di un TV nelle case degli italiani è di 8 anni, ecco, secondo me è chiedere un sacrificio eccessivo agli italiani, a fronte di che? Perché questo è il punto. Se ci dessero alta definizione a go-go, con contenuti più belli, canali migliori, no, resta tutto come prima fondamentalmente, e per avere tutto come prima bisogna riadeguare gli impianti. Beh, magari qualche governo penserà anche a uno schema di incentivi, non lo so, cioè ci sono degli strumenti. Sicuramente la questione, anche se come abbiamo visto è molto tecnica ed è molto noiosa, siccome riguarda 45 milioni di TV installati praticamente nella totalità delle case degli italiani, beh, è una questione che deve essere affrontata. C'è stato molte polemiche in questi giorni, forse non con un referendum, ma quantomeno da un tavolo di tecnici dove siano rappresentati anche i consumatori, cosa che fino ad oggi non mi risulta sia successa. Certo, anche se va detto che chi rappresenta i consumatori, le associazioni dei consumatori, quando finiamo e usciamo dallo studio mi metto a ridere per un quarto d'ora. Beh, diciamo che in 2024 è una buona rappresentanza delle esigenze dei consumatori, seppur non nelle sedi istituzionali. Ah, certo. Dunque Gianfranco, scusa, un'ultima domanda e un'ultima curiosità, cioè mi stai dicendo che già oggi c'è carenza di trasmissioni in alta definizione, che dovrebbe essere lo standard, la normalità, e anche dopo tutto questo casino, scusa la parola, ci saranno trasmissioni in standard definition, cioè non in alta definizione? No, ci stanno promettendo che quando si farà lo switch off tutto sarà in alta definizione. Ci credi tu? Ma io non ci credo, perché purtroppo sono stato, e qui faccio un mea culpa, sono stato per anni, visto che non è qualche anno che sono in questo mercato, complice di un delitto, E il delitto è stato quello di raccontare per anni cose che stavano per arrivare e che poi non arrivavano, soprattutto nel mondo TV. Faccio un esempio. La TV widescreen, quindi i 16 noni. Sì. Nel 1995, quando sono entrato in questo settore, facevano capolino i primi TV widescreen e erano nei negozi. E il motivo di vendita di questi TV era perché adesso, da qui a mesi, anno, due anni, non so, arrivano le trasmissioni widescreen 16 noni. 16 noni. Sì. Per 15 anni da allora si sono visti, chi aveva la sfortuna di avere un TV 16 noni, ha visto normalmente o nelle, se va bene, le immagini tagliate, ma nella più grande, nella stragrande maggioranza dei casi, le immagini ingrassate. Quindi lo schermo 4 terzi, cioè l'immagine 4 terzi spalmata, distorta su uno schermo 16 noni. Quindi io su queste promesse, a questo punto sono diventato un po' più, fatemi dire, tecno-scettico, ma non riguardo alla tecnologia, ma quando la tecnologia dipende da assetti che sono anche politici, che sono di mercato, che sono locali, che sono assetti che poi sfuggono alle logiche prettamente tecnologiche. Ecco, finché non vedo tutti i canali HD sul digitale terrestre, onestamente non ci credo, stante che il passaggio al 16 noni del TG1 data 2015, quindi cioè ecco del TG1, quindi questa è la situazione televisiva italiana. Pensare che adesso tutti diventano full HD o 4K come se nulla fosse, c'ho qualche dubbio, anche se bisogna dire l'Italia è una delle poche nazioni che trasmetterà la fase finale degli europei in 4K, quindi noi siamo sempre molto bravi Nelle eccellenze. Sì. Dopodiché ci addormentiamo. Anche l'alta definizione nacque di fatto in larga parte a cavallo tra Roma e Tokyo, o anzi tra Torino forse e Tokyo, dai laboratori della Rai e quelli giapponesi di NHK. Ma dopo questo punto d'eccellenza, ed era ancora un'altra definizione analogica, ci siamo addormentati e la situazione è questa di oggi. Chi vuole l'alta definizione deve andare via satellite e probabilmente sarà sempre più così. Alla RAI di Roma dovrebbero ascoltare un po' più il centro ricerche RAI di Torino, tra parentesi, però anche qui entrano degli assetti politici e poi vabbè. Non andiamo se oltre. La distanza tra Torino e Roma è più di quella esatto. che il Frecciarossa ci ha insegnato, esatto. più delle 4 ore Frecciarossa. E concludendo, uno si potrebbe dire: ecco perché Netflix riesce poi a infilarsi ed avere successo, perché se ne frega di tutti sti casini che stanno combinando. Ma Netflix, ecco, hai citato un esempio fantastico. Perché Netflix se ne frega? Ma se ne frega perché ha stravolto la logica del broadcasting. Cioè Netflix non fa più un broadcasting quindi uguale per tutti. Quindi adesso quando noi parliamo di switch off è perché bisogna spegnere quella trasmissione e passare a quell'altra trasmissione. Netflix dà un flusso dati diretto a ogni utente e quindi potenzialmente diverso. Già lo fa oggi. In realtà il client, il programma di Netflix, l'app di Netflix, interroga il device che la sta eseguendo. E gli chiede chi quindi sei. Il televisore. Il televisore, ma potrebbe anche essere il tablet, certo, lo smartphone, sì, qualsiasi giusto. Cosa. E dice chi sei, che risoluzione hai, che capacità hai, che codec hai. Ok, sei questo, va bene, ti mando il flusso a te adeguato. Quindi praticamente Netflix, lo switch off, diciamo così, o il cambiamento di frequenze, il cambiamento di codifiche, lo sta già facendo senza che nessuno se ne accorga. Ecco, questa è l'innovazione che ci piace un po' di più. Certo che il broadcasting ha dei vantaggi ovvi, si trasmette lo stesso segnale via satellite per esempio su tutta Europa in un colpo solo, però ecco, questo fa pensare su quei vantaggi competitivi può avere un player che distribuisce canali via internet. Si incomincia a sentir parlare sempre più e sempre più ne vedremo già nei prossimi mesi, non anticipo nulla anche perché non posso, sono sotto segreto, ma dei canali televisivi che si chiamano proprio, vogliono farsi chiamare proprio canali televisivi, ma che nascono soltanto con la distribuzione via internet. Canali che hanno anche una programmazione, fatemi dire, lineare, cioè live. Cioè, quindi stasera alle 20, stasera alle 20 cosa. C'è qualcosa, ma non c'è sull'etere, non c'è sul satellite, ma c'è su internet grazie a un'app che si trova sugli smart TV, grazie a un'app che si trova sui tablet, grazie a un'app che si trova sugli smartphone, grazie a un browser web. Quindi Quanto potrà cambiare questo scenario televisivo? Tantissimo. In questi anni avremo tante cose da raccontare, Enrico, credo molto. Molto bene. Grazie Gianfranco Giardina per essere stato con noi. A presto, ciao. Grazie. Adesso, come promesso, ascoltiamo un'intervista che ho realizzato qualche giorno fa con Nick Triantos, che è il direttore dello Stanford Research Institute in California. Abbiamo parlato di intelligenza artificiale e iniziamo da una breve, facile descrizione di che cos'è, secondo lui, ma insomma su questo direi che tutti gli scienziati sono d'accordo, l'intelligenza artificiale. Well, many people describe it in many different ways. The easiest, I think, is. Molte persone la descrivono in tanti modi. Il più semplice penso che sia macchine che fanno cose come le fanno gli umani o che le fanno meglio di come le fanno gli umani. Or that can do them better than the way that people can do them. Ci fa un esempio di che cos'è già oggi intelligenza artificiale? Sure. Well, Siri is one very easy example where you can talk to the computer or your phone. Beh, Siri è un esempio semplice di come tu possa parlare al tuo computer o al tuo telefono che capisce che cosa vuoi fare e fa qualcosa per te. Capire quello che vuoi è un compito molto difficile se paragonato alla sola comprensione delle parole che hai detto. Questo è un esempio molto semplice. Casi più complessi sono, ad esempio, un'auto che ti dice se stai uscendo di strada, se ti stai scontrando con un'altra macchina o se stai viaggiando troppo vicino all'auto che ti precede. Tutte queste cose hanno un po' di intelligenza a bordo. Ma nel futuro, penso che stiamo iniziando a vedere i computer che you won't be able to tell you're talking to a computer. Ma nel futuro io penso che cominceremo a vedere computer per i quali non saremo in grado di dire se stiamo parlando con un computer. Pensi di parlare con una persona, ma in realtà dietro c'è un computer. Sente, che cosa ne pensa se le dico che ancora oggi, in molti casi, il termine intelligenza artificiale è qualcosa connesso al futuro e non tanto ai giorni d'oggi, ma abbiamo già sentito che esistono già degli esempi di intelligenza artificiale. Well, for many years people have been talking about artificial intelligence coming in the future. I started in computers in the 1980s. Per molti anni la gente ha parlato di intelligenza artificiale come qualcosa che sarebbe arrivata nel futuro. Io ho iniziato a lavorare nel settore dei computer negli anni 80 e allora si diceva che l'intelligenza artificiale era un tema molto importante. Oggi siamo arrivati al punto che l'intelligenza artificiale diventa realtà e direi che da oggi in poi, nei prossimi 10-20 anni, la gente vedrà grossi cambiamenti nel modo in cui i computer lavoreranno con le persone e nel modo in cui computer e robot diventeranno parte della nostra vita. Io credo veramente che siamo arrivati al punto in cui queste cose stanno diventando reali. Anche pensando a quello che fate al Stanford Research Institute, in che cosa deve migliorare l'intelligenza artificiale? So one big area is being able to translate between languages, for example, so I could speak in English and your listeners could understand in Italiano. Beh, un'area molto importante è la capacità di tradurre una lingua. Ad esempio, se io parlo in inglese e gli ascoltatori capissero in italiano, beh, sarebbe bellissimo se questo accadesse in modo automatico, e questo è un grande problema che probabilmente richiederà ancora qualche anno. It's probably still many years away. There's a lot of problems still with computers understanding your emotions. Poi ci sono ancora parecchi problemi a far comprendere ad un computer le tue emozioni. Possono comprendere le tue parole, ma se dico suona un po' di musica, sarebbe bello sapere se sono felice, triste, arrabbiato, e questo cambierebbe il tipo di musica suonato. Senta, lei ha detto che i sistemi di traduzione devono migliorare, ma se penso a sistemi di traduzione anche simultanea, come ad esempio Skype, si può parlare in una lingua e automaticamente il sistema traduce in un'altra lingua, beh, però non mi sembrano male. It's not so bad, but it's not great. I translated, so Skype uses Microsoft. Sì, non è male, ma non è eccezionale. Skype usa la tecnologia di Microsoft, perché è di proprietà di Microsoft, e ieri ho provato a tradurre alcuni documenti e ti dà un'idea di quello che ti serve, ma nessun ulteriore dettaglio. It doesn't give you the romance of the language, it doesn't let you understand. Non ti dà il fascino della lingua, non ti fa capire quello che la gente voleva esprimere, ma certo ti può dire che, ad esempio, il 22 giugno devi andare a cena in un certo ristorante. On June 22nd you have to go to some restaurant for a dinner. Oggi quali sono i settori, diciamo, industriali nelle aziende dove viene utilizzata maggiormente l'intelligenza artificiale? Yes, so for example in banking, many big banks today use artificial intelligence to guess which of their customers are the highest risk. Sì, per esempio nel settore bancario. Molte grandi banche oggi usano l'intelligenza artificiale per capire quali dei loro clienti presenta maggiori rischi e a quali non concedere un prestito, oppure quelli che presentano i minori rischi e che restituiranno i loro soldi. Le compagnie assicurative la usano per indovinare quali persone presentano i rischi più elevati di ammalarsi. Diciamo che se c'è un numero di persone molto elevate da servire, come per le banche o le assicurazioni, queste aziende spendono molti soldi e molto tempo per capire se un cliente è a basso o alto rischio per determinate cose. Parliamo di intelligenza artificiale e di robotica, di automazione industriale. C'è chi dice, c'è chi sostiene che oggi l'intelligenza artificiale possa far diventare i robot così flessibili e così intelligenti, capaci anche di imparare, di comprendere e di migliorarsi sempre di più, che nel giro di poche decine di anni le macchine saranno in grado di fare pressoché tutto quello che fa oggi l'uomo e anzi farlo meglio. Ecco, lei che cosa ne pensa da questo punto di vista? Well, humans are still very good at checking did the robot do things the right way. Robots are very good at carrying something heavy or cutting something very precisely. Dunque, le persone sono molto brave a verificare che il robot stia facendo bene il proprio lavoro. I robot sono bravi a spostare pesi molto elevati o a tagliare in modo molto preciso, ma se un pezzo si gira, la macchina potrebbe non accorgersene, mentre l'uomo sì. Quindi ci saranno ancora molti posti dove gli umani controlleranno se il robot lavora bene. I do think that robots will take certain kinds of jobs from people today in the same way that tractors took work from the people who worked in a field who would. Penso che i robot prenderanno il posto dell'uomo in molti settori, così come i trattori hanno preso il posto di chi lavorava nei campi. Ma questo significa che ci sarà l'opportunità per queste persone di fare nuovi e più interessanti mestieri. C'è ovviamente un rischio e già oggi ci si chiede cosa accadrà quando non avremo più bisogno di lavorare perché abbiamo abbastanza cibo o abbiamo abbastanza di tante altre cose di prima necessità. Basic needs. Do you need to have a job? You know, even in the United States those discussions have started to happen. E Triantos ha concluso dicendo che anche negli Stati Uniti, visto che questo è un tema di cui si sta discutendo in tutto il mondo, anche negli Stati Uniti sono in corso queste discussioni. Naturalmente è stato molto sintetico nelle sue risposte. Questi sono tutti i temi di cui abbiamo parlato in altre occasioni di 2024. Sono temi piuttosto complicati, perché io ad esempio penso che effettivamente l'uso massiccio di intelligenza artificiale creerà molti problemi in molti mestieri. Pensate ad esempio, visto che abbiamo parlato all'inizio di 2024 di veicoli autonomi, si risolveranno tutti i problemi che ci sono oggi, che effettivamente sono comunque pochi, se pensiamo a quello che già oggi fanno i veicoli. Beh, pensate al settore dei trasporti, che nei paesi occidentali occupa milioni di persone. Beh, nel giro di alcune decine di anni in questo settore verranno a meno sicuramente molti posti di lavoro, e questo è un problema molto serio che la tecnologia, che l'uso della tecnologia sta creando, ma è un problema non tanto scientifico, ma è un problema prevalentemente politico. Bisognerà decidere che cosa fare. E così concludiamo questa puntata di 2024, l'intervista che ho realizzato, che vi ho fatto ascoltare, a Nick Triantos dello Stanford Research Institute, è stata realizzata a margine di un evento organizzato a Milano da Assist, in cui si è parlato anche di intelligenza artificiale. E come accade, non sempre, ma a volte succede, alcune cose interessanti, non tutte ovviamente, me le ha dette fuori dall'intervista, microfono spento, e in quel momento non avevo più il microfono pronto. Ad esempio, che ci sono studi molto interessanti sulle batterie basati sul grafene, cosa che abbiamo letto anche in altre occasioni, ma insomma una ulteriore conferma che mi ha dato Triantos. Ci sono alcune società che hanno presentato batterie basate sul grafene molto interessanti, che per il momento costano tantissimi soldi, però su questo ci si può lavorare, ma soprattutto che hanno anche una carica molto lunga. Ma cosa veramente straordinaria, molto interessante, è che la ricarica di queste batterie è pressoché istantanea. Pochi secondi e la batteria si ricarica, quindi pensate se nel giro di pochi anni vedremo batterie di questo genere, e allora lì sì che i veicoli elettrici o comunque molti altri strumenti basati sull'energia elettrica prenderebbero piede. Questo l'ho detto solo in podcast, sono agli amici che ascoltano il podcast. Fate pubblicità 2024, non esiste un programma di fidelizzazione così come con le app. Se spedisci e se inviti un amico sull'app, la prima volta che lui usa l'app e magari spende dei soldi, ti arriva il credito. No, così non funziona, qui è tutto gratis, e quindi al vostro buon cuore. Questo è 2024, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. possiamo interagire anche con Facebook e Twitter. Io sono Enrico Paglierini, ci risentiamo la prossima settimana. Se volete, nei nostri spazi durante il palinsesto di Radio 24, tra le 22 e le 23 il venerdì sera, oppure domenica tra le 13.30 e le 14, o se volete naturalmente via podcast. Ci risentiamo la prossima settimana.